stermi dell'antichità, come il vuol dire che combatteremo all'ombra di Leonide alle Termopili, o per meglio restare in tema, nulla lex satis commoda omnibus est di Tito Livio. Nessuna legge abbastanza comoda a tutti. In effetti, quanti ne hanno riferito hanno visto nel contrasto tra Berlusconi e Borrelli soprattutto un esempio ulteriore di tracotanza cavalieresca di superiore dignità del più celebre magistrato in servizio d'Italia, e personalmente non ho certo motivi per negare questa interpretazione. È solo che c'è un pensiero fastidioso che continua a frullarmi per la testa, è solo un sospetto, ma sento il bisogno di rendervene in qualche modo partecipi, non è facile esprimersi. Facciamo così. Mettiamo che a essere convocati in procura perché accusati di reati più o meno gravi siate voi. Sì, sì, voi, non offendetevi, è solo un esempio fittizio. Dunque vi hanno convocato e voi, ritenendo che l'accusa sia meritata e infamante, avete deciso di non andarci. Senza dubbio pensate il procuratore non avrà nulla in contrario, se non ci sarete voi vuol dire che a quell'ora farà qualcosa d'altro e sereni vi dedicate al disbrigo delle vostre personali faccende. E non sentite per caso un passo pesante su per le scale? E chi credete che stia bussando alla porta con tanta energica risolutezza? Datemi retta, prima di andare ad aprire telefonate a un buon avvocato. È solo un sospetto e diamoci pure un taglio, ma non è così assurdo sospettare che certe forme di serenità non siano motivate soltanto dal carattere di chi le esibisce. La legge è uguale per tutti, figuriamoci, ma il potere è il potere e a Berlusconi evidentemente di potere ne resta quanto basta per assumere un atteggiamento che a me e a voi costerebbe come minimo un accompagnamento forzoso da parte dei carabinieri. Se un giorno o l'altro si riuscirà ad andare alle elezioni e se per chissà quale concatenazione astrale gli capitasse di perderle, vedrete che Berlusconi si comporterà in tutt'altro modo e Borrelli anche. A noi non ci stare.